in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, ben svegliati a tutti, spero che tutti insomma si siano ricordati di fare questa operazione di mettere gli orologi avanti un'ora. Abbiamo perso un'ora di sonno ma abbiamo guadagnato un'ora di luce, quindi va bene così. E poi alla fine l'ultimo sabato di ottobre torneremo all'ora solare. I quotidiani di oggi sono sostanzialmente tutti allineati con due titoli che sono poi quelli che avete sentito anche nel GR, quindi da una parte quello che è successo a Roma con i 60 anni, festeggiamenti per i 60 anni dell'Unione Europea, e dall'altra la visita di Papa Francesco a Milano con questi numeri record, in particolare le 80.000 persone a San Siro e forse addirittura 1 milione di persone a Monza per la messa. Quindi il Sole 24 Ore, l'Europa riparte da difesa e sicurezza, trovate tantissimi approfondimenti all'interno. Due gli editoriali che vi segnalo, uno di Sergio Fabbrini, Il futuro è l'Unione Federale, e l'altro di Luigi Zingales, che è un titolo un po' curioso, Salviamo la UE dagli europeisti, che poi naturalmente leggendolo si capisce che Zingales appunto semplicemente invita, come sempre, perché lo fa sempre, a ragionare bene sulle cose e andare oltre gli slogan. La lettera al risparmiatore, come ogni domenica, richiamata in prima pagina, poi la trovate a pagina 18. Vittorio Carlini si concentra ogni domenica su un titolo quotato. Questa settimana è Elica, è un'azienda che produce soprattutto cappe per cucine. E poi, richiamato in prima pagina, e lo trovate poi a pagina 19, l'articolo di Carla Moreni, che da sempre, da moltissimi anni, è il critico musicale del Sole 24 Ore e del Domenicale, che ricorda i 150 anni dalla nascita di Arturo Toscanini, viene definito anima d'Italia. Il Corriere della Sera ha una sorta di titolo, come vi dico spesso, palchettone, cioè subito sotto la testata, ed è dedicato a Roma. I leader firmano la dichiarazione di Roma, ecco le 5 mosse per la nuova Europa, e però la fotonotizia è di Papa Francesco in uno dei tanti bagni di folla che lo ha coinvolto ieri a Milano. La Repubblica, foto notizia di Papa Francesco, questa volta sulla Papa Mobile, e sullo sfondo tutte le persone che si sono accalcate nelle vie di Milano, a San Siro e poi a Monza per accoglierlo. Di spalla l'Europa rilancia il patto di Roma. Dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo la questione del Milan, che avete sentito anche nel GR e che è approfondita anche sul Sole 24 Ore da Carlo Festa, che ha seguito la vicenda fin dall'inizio. Il titolo in prima pagina della Repubblica è Il pasticcio del Milan, quante scatole cinesi. Come sempre con la Repubblica la domenica, come sempre da quando è direttore Tommaso Cerno, cioè dall'agosto del 2016, la Repubblica è in edicola con l'Espresso, e che questa settimana dedica la copertina a quella che viene definita la rivolta a sud. Ieri la Lega rappresentava la rabbia del nord, oggi a ribellarsi è il meridione, dove muoiono i partiti e nascono i nuovi Masaniello. Da Emiliano, Vittorio Emiliano, governatore della Puglia, a De Magistris, Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli. La Stampa ha una fotonotizia gigantesca orizzontale dedicata a Papa Francesco, in questo caso la foto è stata scattata all'interno di San Siro, e davvero nemmeno per il derby Milan-Inter o Inter-Milan si vede un San Siro così. 1 milione per Francesco, il Papa come una rock star, e subito sotto il titolo sull'Europa, l'Europa lancia la sfida ai populisti. Il Messaggero ha un titolo a tutta pagina, in questo caso ha fatto un po' quello che ha fatto la Stampa con la fotonotizia del Papa. Qui la fotonotizia orizzontale, che occupa quasi tutta la pagina, è dedicata a quello che è successo ieri a Roma, quindi Europa, la spinta di Roma, i 27 leader firmano in Campidoglio la dichiarazione per il rilancio. Interessante ancora di più questa settimana e il consueto intervento di Romano Prodi alla domenica sul Messaggero. Ancora più importante questa settimana, perché Romano Prodi è stato presidente della Commissione Europea, è tra gli europeisti, non diciamo alla Zingales, quelli i veri europeisti, non alla Zingales ma come quelli che stigmatizza Zingales sulla prima pagina del Sole 24 Ore, E quindi da ex presidente della Commissione europea e da grandissimo europeista passo avanti sull'unica rotta possibile. Più sotto anche un richiamo con una foto però molto piccola della visita di Papa Francesco a Milano, e anche richiamata un'intervista a padre Williams, un sacerdote americano, che dice: Bergoglio e Trump, incontro possibile. Il giornale L'Europa che ci piace, un milione dal Papa nel giorno della triste festa dell'Unione Europea. E qui la fotonotizia, anche in questo caso, è di Papa Francesco che attraversa con la Papa mobile una folla. Interessante perché sia il giornale, sia Libero, sia La Verità danno grande risalto al fatto che la manifestazione di Roma, benché d'accordo abbia forse richiamato meno persone di quelle che si pensava all'inizio, alla vigilia, non ha registrato praticamente alcun disordine o intoppo. E da qui il titolo del giornale: Minniti ingabbia i Black Bloc. Minniti naturalmente è il ministro dell'interno, Marco Minniti, ha sostituito Alfano quando c'è stato il rimpasto di governo dopo le dimissioni di Renzi, dopo il referendum del 4 dicembre. A Roma niente scontri, 300 fermati, foglio di via preventivo ai violenti. Libero, anche qui la posizione è uguale, cioè molto critico su queste autocelebrazioni che ci sono state a Roma, che Vittorio Feltri, direttore di Libero, definisce commemorazioni pompose che rischiano di sfiorare il ridicolo. Grande spazio alla fotonotizia di Papa Bergoglio, con due articoli, uno di Franco Bechis e uno di Renato Farina. Manca stranamente questa settimana invece l'articolo di Socci, che non osa evidentemente questa settimana a trovare degli spunti critici su questa visita pastorale di Papa Francesco a Milano. E come vi dicevo, anche in questo caso il richiamo al fatto che è andato tutto bene e che quindi per una volta, anche secondo Libero, il Ministero degli Interni ha lavorato bene. La verità apre su un'intervista abbastanza così allucinante quasi al capo della comunicazione di quello che viene definito il rottamatore, cioè Matteo Renzi. Il titolo scelto per questa intervista, che è anche l'apertura della Verità, l'intervista è fatta da Luca Telese, è: vi supplico, due punti, date uno stipendio a Renzi. Michele Anzaldi, l'intervista è a lui, è il capo della comunicazione di Matteo Renzi, che dice: merita almeno 4.000 euro al mese, io guadagno più di lui. E la trovate per chi vuole divertirsi, direi, con questa intervista, è a pagina 9. Vi dicevo, anche La Verità sottolinea il ruolo avuto da Minniti, con un articolo di Giampaolo Pansa: Minniti salva Roma, ma il vero leader si chiama Francesco. L'Unità titola su Papa Francesco: un uomo fra la gente. Papa Francesco a Milano va nei palazzi delle periferie, visita la famiglia musulmana, poi pranza in carcere. La fotonotizia però è una foto scattata a Mosul. L'articolo di Adriano Sofri: si muore di fame e di sete. Ieri infatti le agenzie di stampa e i media inglesi hanno diffuso la notizia di raid aerei compiuti dalle forze occidentali tra il 17 e il 23 marzo, quindi a cavallo tra questa settimana e quella precedente, che avrebbero provocato la morte di circa 2.000 civili. Poco spazio alla manifestazione di Roma e così un po' di understatement appunto sul ruolo che ha avuto Minniti, molto più risalto su questo ruolo positivo di un ministro di un governo comunque di centrosinistra. Sugli altri giornali abbiamo visto più schierati verso il centrodestra. Il Fatto Quotidiano titola: l'Europa si celebra con quattro gatti, la folla sta col Papa, quindi un po' la stessa contrapposizione che fanno il giornale La Verità e Libero. Nessun incidente, poca gente per l'Unione Europea, un milione per Francesco. L'altro titolo, è anche questa è una storia allucinante che si trova solo sul Fatto Quotidiano, è sicuramente una storia per la quale in altri paesi più o meno normali ci sarebbero dimissioni immediate. La storia è questa: Luca Lotti, che è ministro dello sport ma anche la delega all'editoria, doveva incontrare i rappresentanti delle agenzie di stampa, perché sono in corso alcuni importanti cambiamenti nei contratti per l'agenzia di stampa. Ha mandato a dire il suo portavoce che non poteva partecipare perché sua suocera era in coma. Poi è andato a sciare alla Betone, si è fatto un selfie e l'ha messo anche su internet, e così si scopre che, altro che suocera in coma, aveva semplicemente voglia di andare a sciare e così ha disertato l'incontro programmato con i sindacati. Io non so, no comment. Il manifesto, vacanze romane, naturalmente come sempre il titolo del manifesto, così quasi sempre un po' un gioco di parole. Vacanze romane naturalmente era un film, la foto è quella di Gentiloni che parla con accanto a alcuni leader europei. E poi però, questo è il manifesto, è l'unico giornale a dare tanto risalto a questa notizia, gli europeisti sfilano a Londra, perché come abbiamo sentito da Giorgia Scaturro, anche a Londra c'è stata una manifestazione di stampo europeo delle persone che sono nel Regno Unito contrarie alla Brexit. Ci lasciamo però un attimo per una pausa, sentiremo anche qualche aggiornamento sul meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, l'ultima domenica di marzo, con questa ora legale che è scattata, quindi avremo un'ora di sole in più e questa è sempre una bella notizia secondo me. Abbiamo visto tutte le prime pagine dei giornali, tranne quella dell'Avvenire, che oggi mi sarebbe piaciuto in particolare sfogliare, ma è arrivato in ritardo, forse hanno cercato fino all'ultimo di aggiungere cronaca sulla visita di ieri a Milano del Papa. Tra l'altro ringrazio l'ascoltatore che mi corregge, io ho detto che a Mosul i raid della coalizione internazionale avrebbero provocato, soprattutto americani, in realtà raid americani avrebbero provocato 2000 morti tra i civili, in realtà 200. Dalle pagine interne dei giornali vi segnalo Nova, che esce ogni sabato, ogni domenica, all'interno del Sole 24 Ore. Questa settimana la copertina è tutta dedicata a come la tecnologia sta cambiando la medicina e soprattutto come la medicina negli ospedali. Il futuro in remoto dell'ospedale, l'articolo principale di Agnese Codignola, che è forse la più importante giornalista italiana che si occupa di temi di scienza e di medicina, e che scrive: la medicina è cambiata, non può prescindere dalla tecnologia che sta a noi trasformare in human information technology. Tra l'altro nella versione augmented reality di Nova, che potete, appoggiando il cellulare appunto, potete avere accesso diretto agli articoli su internet legati all'argomento principale della copertina di carta, ci sono tre approfondimenti sempre di Agnese Codignola. La nuova medicina cinese: la Cina infatti relega l'ospedale a un ruolo secondario e incentra la propria attività sull'assistenza virtuale. Per quanto riguarda la prevenzione, un focus sulle tecnologie, come hanno migliorato i pacemaker, che letteralmente vuol dire fare il ritmo, cioè sono quei congegni che vengono inseriti nel cuore per ridargli appunto il giusto ritmo e scongiurare l'infarto. E poi un terzo approfondimento, startup, le magnifiche 5 di Israele, che ne conta più di 4.000, molte delle quali dedicate alla biomedicina. Sempre dal Sole 24 Ore, la copertina di Imprese e Territori, un montaggio di tre pezzi che ci spiegano la seconda vita del cappello. Il distretto marchigiano di Montappone, scrive Michele Romano, riparte dopo il terremoto per consolidare la crescita degli ultimi anni. Due i casi, Filomena Greco ci racconta il caso Borsalino, che in realtà non è nelle Marche ma è vicino ad Alessandria. Borsalino ha avuto dei problemi, è entrata in una procedura di concordato, ora però si sta riprendendo questa è naturalmente una delle eccellenze italiane. Pensate che Borsalino, abbiamo appena citato Israele, Borsalino per esempio fa quei cappelli particolari dei rabbini, li fa quasi tutti Borsalino, insomma è veramente specializzato non solo nei cappelli famosi che abbiamo visto sulla testa di tanti attori. Il secondo caso ce lo racconta invece Carlo Andrea Finotto, è un'azienda di Biella, vicino a Biella, che produce anche per marchi del lusso come Hermès e Vuitton. Come sempre ogni domenica la pagina dedicata a sport e business, non poteva che essere la Formula 1 il focus di questa settimana, visto che è ripartito il campionato di Formula 1. Formula 1 torna in pista e insegue il record di incassi. Stamattina in Australia, prima tappa del mondiale, Liberty a lavoro per un giro d'affari da 9 miliardi. Dal Corriere della Sera invece vi segnalo un bellissimo articolo di Federico Toman che parla di questa azienda svedese che si chiama Crisp, che non ha un CEO, cioè un Chief Executive Officer, quello che noi chiamiamo amministratore delegato. Alla Crisp, ci racconta Federico Toman, le decisioni vengono prese in modo collegiale e in trasparenza. È interessante perché ci sono anche altri casi, sta facendo un po' scuola questa azienda che non stupisce, è della Scandinavia. Ce n'è un'altra in Svizzera che è Freitag, che ha preso la stessa decisione, cioè di non avere un uomo in alto nella scala gerarchica che decide tutto, ma di prendere invece più decisioni condivise possibili. E c'è tra l'altro un altro caso invece di un'azienda molto classica, che è il gruppo Richemont, che è il terzo gruppo del lusso al mondo, è un gruppo svizzero. Lo scorso dicembre il gruppo Richemont, che per darvi un'idea è quello poi a cui appartengono Cartier e tantissimi altri marchi, ha annunciato che quando il CEO attuale Richard Lepeu andrà in pensione, succederà alla fine di questo mese, non sarà rimpiazzato. Poi vedremo se succederà davvero. Parlavamo di salute, l'approfondimento settimanale del Corriere che esce la domenica si chiama Corriere Salute. Questa settimana è dedicata in particolare alla medicina per gli anziani, invecchiare bene nelle città a misura di anziani. Questo è l'articolo di copertina, che in particolare appunto indica Toronto, New York, Varsavia, ma anche Udine e Imperia come le città che appartengono a una rete di metropoli amiche dei più longevi, voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, che valuta quindi e naturalmente incentiva strutture e servizi realizzati in base alle esigenze della terza età. Sulla Repubblica una pagina intera e molto interessante di Andrea Bonanni sulla manifestazione di Londra, quelle bandiere blu naturalmente dell'Unione Europea, che tornano nelle piazze contro l'europessimismo. Vi dicevo della strage di Mosul, la trovate anche oltre che sull'Unità anche su Repubblica, appunto queste 200 persone morte nel bombardamento di un palazzo che però avrebbe ospitato anche una postazione dell'ISIS, quindi la giustificazione appunto era colpire l'ISIS. E poi una notizia che ho visto solo su Repubblica, un articolo di Angelo Acquaro inviato a Hong Kong. Hong Kong si appresta a andare alle urne, il dragone divora, il dragone inteso come la Cina a cui Hong Kong è stata restituita dopo essere stato un protettorato britannico per moltissimi anni. Hong Kong alle urne, ma il dragone divora i sogni e i primati della metropoli. Sulla Stampa, che come sapete alla domenica ha sempre tra le molte cose anche un'inchiesta su due pagine, questa settimana il tema sono le donne che scelgono di diventare mamme superati i 50 anni. Mamme ultra cinquantenni, uteri artificiali e genoma sintetico, così cambia il ciclo della vita. Naturalmente è una possibilità data soprattutto dalla scienza, non sarebbe stato pensabile anni fa. Se è vero però che adesso è possibile, non è detto che poi la vita si allunghi così tanto, che una donna di 50 anni abbia molte più energie, tutte quelle che servono per allevare un bambino, naturalmente insieme al padre del bambino, di quante ne avesse 10-15 anni fa. Comunque molti gli approfondimenti, da una parte appunto la questione medica e uno specchietto che spiega che cosa ha fatto la medicina per dare questa possibilità, e anche altri dati interessanti su come è diffuso questo fenomeno in Italia. Le regioni con il minor numero di parti di donne over 40 sono Sicilia, Calabria e Campania. Quelle invece con il maggior numero di parti over 40 sono Liguria, Lazio e Toscana. Ma c'è anche un'intervista al filosofo della scienza epistemologo Giulio Giorello, che oggi maledice la tecnica, dovrebbe invece ringraziarla. Cita anche la miopia, che una volta era definita peccato, ma qui parliamo veramente di tempi in cui la scienza praticamente non esisteva quasi. Poi sono arrivati gli occhiali. Comunque ovviamente è un po' un paradosso, però sicuramente bisogna stare molto attenti anche degli aspetti etici quando si valutano i progressi scientifici. Poi una notizia bellissima, solo sulla stampa, perché la stampa è davvero un giornale molto radicato sul territorio piemontese, ce la racconta Cristina Borgogno da Alba, dall'interno della Miroglio, una fabbrica del gruppo Miroglio, uno dei principali gruppi italiani della moda, che però è molto attivo anche nella parte tessile. Ago contro Filo, la sfida di due squadre di studenti per la prossima collezione. L'iniziativa per i giovani, il team migliore, vincerà uno stage nell'azienda. Una bellissima intervista di Alain Elkann nella serie Domenica con. Questa settimana è Antoine Gallimard, che è erede e presidente dell'omonima casa editrice francese, una delle più importanti in Francia. Il titolo dell'intervista è bellissimo, secondo me: senza libri una casa non ha finestre. Però c'è anche il tema dell'avere un padre così ingombrante, chiede Alain Elkann. È difficile essere un erede? E la risposta è: suscita un sacco di gelosie. Che cosa le ha insegnato suo padre? L'importanza della pazienza, della perseveranza e la familiarità con gli scrittori. Era intimo di Milan Kundera e Jean Giono. Dalle pagine interne del Messaggero vi segnalavo l'intervista a Thomas Williams, che è un ex sacerdote dei Legionari di Cristo, che ipotizza appunto che si possa organizzare questo incontro Papa-Trump, anche se dà le possibilità al 50%. Poi voi sapete, ascoltatori che mi conoscete un pochino, il mio amore per gli animali, per i gatti in particolare, perché sono gli unici che riesco a avere in casa con me. E questo è un articolo di Oscar Grazioli sul Giornale, che parte da uno studio americano e che ci spiega come anche Fido ha orecchio, ma odia le canzoni che piacciono a voi. Niente Mozart, Beatles o Mina, gli animali hanno altri ritmi e c'è chi compone per loro. E c'è appunto l'esempio, per esempio, di questo violoncellista che ha inciso due CD di musica per gatti, e lo ha fatto insieme all'America's National Symphony Orchestra. Ultima segnalazione prima di passare ai supplementi domenicali: vi dicevo, tutta la pagina dell'Unità su quello che viene definito l'orrore di Mosul. E poi invece, se volete leggere questa vicenda, per me da dimissioni, ma che sicuramente non vedremo, che riguarda Luca Lotti, la trovate a pagina 6. Lotti da buca all'agenzia e poi si fa dei selfie sulla neve. Ci fermiamo un attimo per l'aggiornamento sul traffico e ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna dedicata ai supplementi domenicali. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta In Primo Piano. E ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eccoci con i supplementi della domenica. Cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi. Oggi la citazione è è una citazione di Lorenzo Milani, che poi è stata ripresa negli anni da molte persone. Si intitola Diseguali, il breviario, e la citazione è questa: non c'è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali fra diseguali. Aveva 44 anni, scrive Monsignor Ravasi, quando un linfogranuloma suggellò la sua vita terrena, singolare, irripetibile, misteriosa, fulminante, come la definì il suo amico padre David Turoldo. Stiamo parlando di Don Lorenzo Milani, il prete fiorentino dall'intelligenza, umanità e spiritualità assolutamente straordinarie. Tant'è vero che ancora oggi la sua eredità è viva, come è attestato da molte riprese della sua figura. Giustamente in un suo libro lo scrittore Eraldo Affinati l'ha definito uomo del futuro, o se si vuole, della verità temporale, come si ha nella frase che abbiamo citato. C'è infatti una parzialità che è paradossalmente la pienezza dell'imparzialità e della giustizia, quando si esercita nei confronti dei deboli, degli indifesi, degli ultimi. L'aveva già intuito, per certi versi, Cicerone, quando aveva citato nel suo De Officiis il proverbio «Summus ius summa ignuria», un diritto troppo rigido e frigido può trasformarsi in clamorosa ingiustizia. Sì, tra diseguali è immorale amministrare un'astratta uguaglianza di giudizio. Ma la copertina vera e propria, il pezzo di copertina vero e proprio, è dedicato a un saggio di Ronald Witt che racconta il Rinascimento e tutta la nascita del Rinascimento e il pezzo di Gabriele Pedullà, che è una lunga recensione di questo articolo. Di questo libro che, ripeto, si intitola L'eccezione italiana, l'intellettuale laico nel Medioevo e l'origine del Rinascimento, perché l'umanesimo è nato in Italia. Sempre dal Sole 24 Ore, un tema che personalmente mi affascina molto, che è quello della ricerca di vita extraterrestre. Vincenzo Barone parte da una serie di testi e in particolare da un libro che si intitola Alieni, c'è qualcuno là fuori, appena pubblicato da Bollati Boringhieri. L'articolo si intitola Cercando prove di vita aliena, granelli di miglio nello spazio infinito. Esistono solo due possibilità: o siamo soli nell'universo o non lo siamo. Entrambe le alternative sono terrificanti, ma è proprio così? Leggete e decidete. Poi c'è il supplemento, arrivato ormai al numero 21, c'è qualcuno che sa leggere, dedicato ai lettori più piccoli, ma in realtà poi ironicamente si scrive nella testata lettori forti da 0 a 99 anni, mai domenica fu più adatta e lo sarà anche la prossima, perché dal 3 al 6 di aprile a Bologna si tiene la Fiera del Libro per Ragazzi, che è la più importante Fiera del Libro per Ragazzi del mondo. È bellissima, è aperta solo agli operatori, però le mostre in generale, perché molti libri, soprattutto per i più piccoli, sono illustrati e quindi ci sono in genere in mostra tavole tratte da molti libri e sono in generale bellissime. Ma il pezzo principale della copertina lo firma Eliana Di Caro ed è una recensione di questo libro che già dal titolo incuriosisce molto, Storia della buonanotte per bambine ribelli, 100 vite di donne straordinarie, niente belle addormentate e principi. Il libro di racconti, primo in classifica in questo momento, narra di donne che ce l'hanno fatta in tutti i campi, dalla pittura al tennis, dalla matematica all'archeologia, e quindi il titolo Bambine, siate ribelli, farete le scienziate. Abbiamo parlato prima di Don Milani, tra l'altro c'è un ascoltatore che non approva tutto questo spazio dato a Papa Francesco e anche a Don Milani. Allora gli consiglio la lettura dell'articolo di Paola Mastrocola, che tra l'altro è, oltre a scrittrice, è stata per molti anni della sua vita un'insegnante, è intitolato Uscire dal Don Milanismo. Grammatica e ortografia sono reazionarie, questa era una delle cose che diceva Don Milani, anche se poi naturalmente il pensiero non è mai il pensiero di Don Milani, poi in particolare non è, sicuramente non va mai per slogan, quindi bisognerebbe andare poi a vedere come spiegava questa opinione. In ogni caso Paola Mastrocola non è d'accordo, dice che oggi proprio manca nelle scuole italiane un insegnamento serio della grammatica e dell'ortografia, e anzi dice che sono le cose più importanti da insegnare. La lettura del Corriere della Sera, come ogni domenica, affida la prima pagina a un artista. Questa settimana è un artista francese giovane, del 68, si chiama Laure Prouvost, è un collage. E poi le prime 9 pagine della lettura, secondo me sono veramente tutte da leggere. Le prime due sono un articolo di Francesco Piccolo intitolato Oggetti in via d'estinzione. Le cose che non ci sono più ci ricordano che siamo esistiti, trasmettendo l'idea più precisa della vecchiaia. Papà, gli chiede suo figlio, cosa sono le cabine del telefono? E poi nelle pagine invece successive ci sono appunto 5 esempi di oggetti che praticamente non ci sono più o che non ci saranno più: i fax, il telefono, quello a rotella, i fazzoletti che venivano usati una volta, mentre adesso usiamo tutti quelli di carta, e altri oggetti. Poi invece si passa agli animali in via di estinzione. E qui ci sono anche qua 4 articoli, uno tra l'altro di Telmo Pievani, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, perché per la sua trasmissione e le frequenti interventi insieme a Federico Taddia, per esempio lui racconta di come sia in pericolo una specie particolare di tartaruga, e poi anche il pericolo comunque di estinzione per i leoni e anche altri animali ancora. da sempre dalla lettura, un'altra segnalazione, un racconto che fa Helmut Failoni con un'intervista a un direttore d'orchestra greco che si chiama Theodor Currentzis, che ha fondato questa orchestra che si chiama Musica Eterna, ha sede in una città russa, 1400 km da Mosca. Viviamo insieme, abbiamo un credo condiviso, cerchiamo l'estasi, ovvero una forza che cambi l'uomo. Robinson della Repubblica, il supplemento domenicale della Repubblica, che è arrivato invece al numero 17, anche questo è relativamente nuovo. Bambino chi legge, c'è veramente tantissime pagine dedicate che prendono spunto, come abbiamo detto, dalla fiera annuale dell'editoria per ragazzi che si terrà a Bologna dal 3 al 6 di aprile, e parla di moltissimi libri per bambini e del perché naturalmente è importante che i bambini leggano. La serie Straparlando di Antonio Gnoli, le interviste di Antonio Gnoli illustrate sempre da Riccardo Mannelli. Questa settimana l'intervistato è Giuseppe Galasso, uno dei più importanti storici italiani. Il titolo dell'intervista è Lo studio della storia marcia insieme alla passione civile, ma oggi stanno tornando forze oscure e minacciose. Chi crede nella laicità e nella ragione è un sopravvissuto. Non esattamente ottimista Galasso. Alias, il supplemento domenicale del Manifesto, ha una lunghissima recensione in copertina dedicata a un libro di Clarice Lispector. Lo trovate recensito anche su altri giornali, ma qui forse è la recensione più completa. Clarice Lispector viene definita divoratrice di interdetti. L'assenza di una trama, perché è un libro appunto senza trama, quindi se volete anche, insomma, armatevi di coraggio se lo volete leggere, perché non è un libro facile da leggere, fa avanzare il romanzo per profezie, lampi e privazioni, con una forza poetica, linguistica e, malgrado tutto, narrativa. Ultimissima segnalazione, Macro, il supplemento domenicale del, in realtà esce tutti i giorni, ma alla domenica è un po' più ampio, del Messaggero. È una intervista molto interessante a Juan Pablo Escobar, figlio del narcotrafficante colombiano ucciso nel 1993, che ha pubblicato un altro libro raccontando la sua versione della sua vita e del rapporto con il padre. Ripercorre naturalmente, Pablo Escobar è forse il trafficante di droga colombiano e non solo più famoso, tra l'altro c'è un elemento di forte attualità, perché sapete che dopo 50 anni si è trovata una tregua e la Colombia forse veramente sarà rappacificata. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Andrea Roccabella in regia, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato degli messaggi o sms o whatsapp al 349 238 6666, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. Grazie.